cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. Il 28 novembre del 1907 nasce Alberto Moravia, scrittore italiano. Per l'ambiente. Sono un uomo diverso, sono un po' perso. Ma questo è il mio universo. Ma questo è il mio universo. Gigi D'Agostino. Un piccolo paese fuori dal mondo. Io sono nato con pane e vino e Gigi D'Agostino. Ah, e cazzo. Tommy 94 da Roccaforte, in provincia di Cuneo. Ciao Gigi, sei Mario da Manfredonia. Domenica mio fratello ha compiuto 22 anni, gli può fare l'auguri da parte mia? E già che te trovi, gli dedichi una canzone a tuo piacere.

sono Isma, Nitrus del forum gigidagostino.com. Oggi faccio 2 anni con la tipa. Tipo? Ah, non è il nome. Sarà amichetta sua. Leggeresti una dedica durante il cammino, visto che anche lei ti segue sempre? Certo. Volevo ringraziare Biri per questi 2 anni insieme, in cui mi è sempre stata vicina e mi ha sostenuto, facendomi ricredere nell'amore. Ti amo. Fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. La situazione si fa bella, è suonata la campanella. Signore e signori, in console c'è Gigi D'Agostino. La musica è un forte sentimento. Sesso, amore, dolce e violento. questo programma musical mental. Olé. Me gusta mucho macho. Que cacho. Scrivi il numerino, il cammino di Gigi D'Agostino. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Poi cazzo e melodia, Gigi D'Agostino questo sabato suona in Lombardia, a Capriolo, vicino Brescia, discoteca La Fattoria, dalle ore 22, lascia che sia. Antonio e Paolo, due tuoi fans fermati dai Carramba fuori la disco di Vado Ligure. Stai tranquillo, siamo tamarri, bizzarri, ma bravi ragazzi. Dedicaci una canzone, perché nonostante le avversità, il nostro cammino continua. Penso che posso ballare con questo casino, mi posso esaltare. Al ritmo del lento violento il cuore mi batte e vuole ballare. Accendo la radio a quell'ora perché c'è un maestro che voglio ascoltare. Il cammino è lento violento e con un messaggio da catturare. Dal ritmo più duro a quello più dolce io mi farò trasportare. Perché quello che conta non è etichettare, ma è solamente amare. Amare la musica di questo cammino che non segue mode come un cretino. Signore e signori, dirigermi Gigi D'Agostino. ciao Gigi, saluta Isa e dille che le voglio tanto bene e di ricordarselo, Mauri o meglio Brigna. Say the bridge in the bed and the head in the ball. She can never breathe on a nigga, dick and make him call. Come on, come on, come on. You want this money, then you gotta be a bad bitch. Shake that ass, put a tip if you a bad bitch. Drop it down to the floor if you a bad bitch. Oh, now she ain't a hoe, she just a bad bitch. You want this money, then you gotta be a bad bitch. Shake that ass, put a tip if you a bad bitch. Drop it down to the floor if you a bad bitch. Oh, now she ain't a hoe, she just a bad bitch. Gigi, tu e il tuo cammino siete perfetti. Sì, lo so. Verrai una volta ad Alba, Cuneo. Cinzia da Cherasco. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ciao Gigi, dopo tanto tempo che ti inseguivo, finalmente quest'estate ho potuto apprezzarti al live di Loret del Mar. Tu non fai musica, ma poesia in movimento. Fammi ascoltare la passione, la mia canzone porta fortuna. Juster. Gigi, son Mike, metteresti la passione per il mio amore Loredana e per me? Un attimo di attenzione. Dobbiamo cambiare canzone. Sono Matteo di Arenzano, provincia di Genova. Vorrei dedicare Solo in te a Stefania di Savona e dirgli che la amo tanto, troppo. Dedico la canzone che fa Perché di te ho bisogno a mia sorella Serena. Grazie. C'è qualcosa di strano nell'aria, forse solo dentro me. Una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io ho vissuto sempre con te. Credo in quel che ho trovato ed è quello che vedo solo in te. Con te, con te, solo in te. Se qualcuno dicesse che tu sei solo un sogno, io ti prego stai con me. Per Letizia e Giovanna, un sogno, una sensazione meravigliosa. Vorrei che il tempo si fermasse quando sono con voi. Per sempre vostro, Franco. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica vendetta. Fatti rapire da questa melodia. Giovedì 7 dicembre, Gigi D'Agostino suona a Pavia, discoteca Metropolitan, a Casteggio, in Lombardia. Dalle ore 22, lascia che sia. Agire ed esaltarsi senza tregua. Émile Verhaeren. Oh, l'ho detto giusto secondo te? Leggi bene, se no ti estraggo le ginocchia o la pota. Gigi D'Agostino, un altro modo di fare musica. Da San Giorgio Morgetto, un papà di due ragazzi diversamente abili. La mia vita è tutta per loro. Grazie Gigi, la tua musica li fa impazzire. Il cammino di Gigi D'Agostino. Volevo dedicare Silence a Jose Sito, il frittellaio di San Siro che oggi compie gli anni. La tua luce permette di brillare anche a noi. Grazie papà. Ivan. Never turn wrong to my heart. Lead your life into the destiny of love. Walk it hand. Tight when I look into your eyes. I've been waiting for your love. All your life just for the destiny of love. I adore to see your smile. Hold me tight when I look into your eyes.

Ciao e grazie.